Noi siamo entrati con un concorso che si è svolto nel 2022. Siamo entrati con i fondi del PNRR per risolvere uno dei problemi grossi che abbiamo nel nostro paese, che è appunto quello della digitalizzazione della pubblica amministrazione. Teniamo conto che i fondi del PNRR, tra i punti cardine, diciamo, della loro destinazione all'Italia, era proprio la digitalizzazione, quindi noi siamo un po' uno dei punti centrali di questi fondi, però ad oggi, dopo 2 anni, dal nostro arrivo più di 2 anni, non c'è ancora una prospettiva di stabilizzazione per oltre 12.000 lavoratori e lavoratrici della giustizia. Parliamo di figure che coprono l'ufficio del primo processo, le figure di data entry, che quindi sono quello che faccio anche io, quindi siamo quelli che poi effettivamente lavorano sulla digitalizzazione del fascicolo, e le figure dei tecnici, sono funzionari che lavorano anche loro per il progetto PNRR. Il governo ci sta ignorando. Per adesso, da quando abbiamo cominciato questa lotta, siamo riusciti, diciamo, a strappare un numero che sono 6.000 stabilizzazioni, ma siamo ancora a un numero molto basso, perché comunque parliamo della metà dei numeri necessari per stabilizzare tutti e tutte. Questi 6.000 posti sono derivati, 3.000 dalla finanziaria e 3.000 sono a carico dei piani assunzionali del Ministero nel triennio 2023-2029. Però non bastano, perché la giustizia, il sistema giustizia, ha una grossa sacca di precarietà al suo interno. Parliamo dati ufficiali che sono cresciuti tra il 30 e il 40% di media. Qui a Bologna siamo addirittura un 50%, quindi 150 unità nel tribunale, su 300 unità nel tribunale, 150 sono precarie. In alcuni uffici parliamo di una precarietà del 70%, dove ci sono su 10-11 lavoratori e lavoratrici, 7 sono precari. Quindi il 1 luglio 2026, se tutte queste risorse vengono sprecate, vengono mandate a casa, siamo di fronte a una situazione abbastanza difficile per il modello, per l'organizzazione. Questo ovviamente avrebbe ripercussioni, cioè questa mancata stabilizzazione avrebbe ripercussioni poi anche sul servizio in sé. Assolutamente, assolutamente. Lasciando il fatto che noi siamo vincitori di un concorso, quindi mandano a casa metà persone che effettivamente il concorso l'hanno vinto e che si sono trasferite con tanto difficoltà, perché poi parliamo, io ti parlo della realtà di Bologna, ma molti di noi si sono dovuti spostare dalle proprie zone dove vivono per prendere servizio in altri paesi, addirittura in altre regioni, con tutte le difficoltà del caso. Quindi il servizio sicuramente peggiorerà, perché non ci sarà più forza lavoro che porterà avanti gli uffici, e chi rimarrà avrà dei carichi di lavoro aumentati, ma soprattutto 6.000 persone e tutto quello che c'è intorno, quindi famiglie, figli, mogli, mariti, fidanzate, andranno in estrema crisi, perché già siamo in un periodo di grave insicurezza economica, sociale e politica. In più, mandare a casa 6.000 persone è un ulteriore aggravio della situazione. Spingiamo sia perché la giustizia, per essere un servizio accessibile a tutti quanti, ha bisogno di personale, perché quando parliamo di giustizia parliamo del diritto basilare di chiunque di veder riconosciuto l'accesso a risarcimento di un torto, l'accesso proprio alla base della tutela civile, che è quella che chi sbaglia va punito, e la vittima viene in qualche modo risarcita dello sbaglio che è stato commesso verso di lei. A Bologna ci sarà un presidio alle 10:30 davanti alla prefettura, giusto? Sì, alle 10:30 faremo un presidio davanti alla prefettura, sarà una delegazione di lavoratori e lavoratrici di Bologna, dell'Emilia Romagna. Andremo, chiederemo un incontro con il prefetto, dove consegneremo poi quella che è la nostra nota su quella che è la stabilizzazione, sul problema della carenza di personale. Cercheremo di far arrivare la voce dei precari, che viene ignorata dal Ministero, cercheremo di farla arrivare a chi poi il governo lo rappresenta sul territorio,